cosa ho fatto, sono scivolato ancora dentro un letto. Mamma, mamma, che devo dire, o era amore o somigliava bene. Oh, oh, oh, oh mamma, m'hanno creato tutto sbagliato. Oh, oh, oh, oh mamma, però non riesco a capire il mio peccato. Ricordiamo com'è. Liberanos amaro, toglici pure il perché. Libera, libera, libera, libera, libera, libera, libera. Mamma, sarò cattivo, ma sono carne e sangue, insomma vivo. Eccomi mamma, col capo chino, come castigo, perché castigo. Oh, oh, oh mamma, lei stava bene, io stavo bene. Oh, oh, oh, oh mamma, o è proprio questo che non si può dire. Qual è? Libera piano, piano, che ci scordiamo com'è. Libera nostra mano, toglici pure il perché. Libera, libera, libera, libera, libera, libera. Andando dietro me, e al ritorno chiedo scusa, e non so perché. Giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo, giù tutto te. Giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo, giù tutto te. Giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo, giù tutto te all'inferno. Giù le mani, giù i pensieri, giù tutto il corpo, giù tutto te. Liberano.